Qual è la sua valutazione a 360 gradi sulla gestione di questo grande evento? Beh, direi molto positiva. Positiva sotto il profilo della gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, e siccome vivo in tutti i sensi all'interno dell'evento, mi sembra che l'evento stia andando al meglio. Per la verità non le nego che quando ho visto per la prima volta i planning degli eventi, perché poi anche qui si tende in qualche modo a semplificare, qui abbiamo un G8, un G14, un G5, un MEF, e chi più ne ha più ne metta, qualcuno brillantemente lo ha definito un G-tanti, e quindi ero veramente impressionato dalla complessità dell'evento, e tutto si sta svolgendo con un giusto sincronismo. Devo dire, l'altra cosa che mi ha colpito positivamente è il fatto che i nostri ospiti eccellenti si muovono con estrema libertà all'interno della struttura. Questo significa che hanno percepito il clima complessivo, il livello di sicurezza, e quindi questo non ci fa che piacere. Fa piacere soprattutto non ad ognuno di noi, ma a questo paese, che potrà sembrare retorica, ma è l'unica ragione per la quale ogni funzionario dello Stato dovrebbe lavorare, no? È stato più difficile organizzare le cose qui all'interno della cittadella della Guardia di Finanza o seguire affinché tutto vada bene, per esempio le visite nel centro storico dei grandi leader, da Obama al presidente della Federazione Russa alle First Lady? Guardi, io qualche giorno fa avevo lanciato una sorta di appello, avevo detto che sarebbe stato un delitto se ci fosse stato un contesto esterno condizionasse o potesse condizionare in negativo la possibilità dei leader di uscire. Questo non è avvenuto, e credo che questo sia la giusta sintesi non solo dei dispositivi di sicurezza che sono stati posti in essere, ma anche la corretta e giusta sensibilità della cittadinanza, e le persone, i ragazzi che hanno manifestato in questi giorni, peraltro devo dire in maniera assolutamente sobria, pacifica e composta, hanno garantito queste uscite. E siccome uno degli obiettivi primari dello spostamento del vertice all'Aquila era la possibilità per i grandi della terra di rendersi conto di quelli che erano stati gli esiti del terremoto, ecco, tutto questo si è realizzato, è stato possibile consentire le visite in assoluta sicurezza e anche, devo dire, in assoluta tranquillità, e spero che questo serva all'Aquila, perché poi al di là di quelle che saranno le decisioni del vertice, che un po' provincialmente ci interessano fino a un certo punto, cioè ci interessano perché siamo cittadini del mondo al pari degli altri, però ecco, avevamo una speranza in più che questo vertice potesse in qualche modo servire all'Aquila, servire alla sua ricostruzione, e mi auguro che questa non sia una speranza vana.